Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il Nobel per la pace e la lotta contro l'abolizione delle armi nucleari, mentre Trump si scaglia contro l'accordo con l'Iran. Catalogna a Madrid inizia a reagire sul fronte economico, i vertici indipendentisti, oggi in tribunale. Indagato il sindaco di Riace, diventato famoso nel mondo per la politica di accoglienza dei migranti. Legge elettorale Ius Soli, due fronti di scontro politico, sulla cittadinanza i verdiniani aprono al sì. Calcio, qualificazioni mondiali, a Torino questa sera Italia-Macedonia e lunedì il match contro l'Albania. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi abbiamo dall'altra parte del vetro Giulia Lauricella per l'assistenza e la parte redazionale, Andrea Roccabella in regia, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp come sempre, e poi la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video e se volete potete commentare anche là. In apertura dunque il Nobel per la pace che va a chi lotta, come si diceva nei titoli, per l'abolizione delle armi nucleari. The Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons. È stato assegnato all'Organizzazione per il Bando alle Armi Nucleari ICAN il Premio Nobel per la Pace 2017, il riconoscimento più prestigioso e atteso della settimana dei Nobel. Il premio è stato assegnato alla ICAN per il suo ruolo nel far luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per gli sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizione di queste armi. L'annuncio ha di fatto rispettato le previsioni che con la crisi nordcoreana in corso e con il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul trattato nucleare iraniano davano questo tema come il favorito nelle preferenze dei selezionatori. È la 19ª volta che il Nobel per la pace va a chi si batte a favore del disarmo. Nel 2013 andò all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, l'OPAC. L'ICAN, organizzazione no profit fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni partner in 101 paesi, tra questi anche i beati costruttori di pace, il presidente Don Albino Bizzotto. No, nessun trionfalismo, perché le cose per le quali abbiamo lavorato non hanno trovato una risposta così che per noi sia adeguata. Però ritrovare il senso, la gioia e anche l'energia per mantenere la tenacia e l'impegno, questo credo sia una cosa bella. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il presidente americano Trump si sta muovendo per cercare di rigettare o quantomeno rivedere l'accordo con l'Iran proprio sul nucleare. Secondo il presidente americano, appunto, Teheran non ha rispettato lo spirito dell'accordo. Ma quali sono i termini dell'accordo stesso e che cosa rappresenta? Sentiamo. Il 14 luglio 2015 la comunità internazionale si rallegrava per l'accordo sul programma nucleare di Teheran, concluso a Vienna tra l'Iran e il gruppo dei 5+1, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina, Russia e Germania. All'Iran si concedeva il diritto all'arricchimento dell'uranio e al perseguimento di un programma di sviluppo nazionale dell'energia atomica, ma si chiedeva di contro il rifiuto di qualsiasi ipotesi di sviluppo di armamenti nucleari o tecnologie riconducibili a questi, con contestuale trasferimento all'estero di 300 kg di scorte di uranio a segno di garanzia e rispetto dell'accordo. Teheran accettò anche limitazioni nelle attività di arricchimento, nel numero e nella tecnologia delle sue centrifughe, nonché un aumento dei controlli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. In contropartita otteneva la progressiva rimozione delle sanzioni dell'ONU, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti su transazioni finanziarie, scambi di gas e petrolio, trasporto di merci via aerea e lo sblocco di crediti vantati all'estero o là congelati per svariati miliardi di dollari. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Andiamo in Catalogna adesso, una giornata nella quale la cronaca racconta dei primi interrogatori degli indagati per sedizione, mentre la Spagna prepara contromosse economiche. Iniziamo da Barcellona. Il comandante della polizia catalana, Lluís Trapero, è stato chiamato a dichiarare questa mattina presso l'Audienza Nacional di Barcellona perché sotto inchiesta per un presunto reato di sedizione. Legato al mancato intervento dei Mossos de Squadra, in difesa degli agenti della Guardia Civile Spagnola asserragliati dei manifestanti all'interno del Ministero d'Economia catalano lo scorso 20 settembre. Insieme a Trapero sono stati citati in giudizio anche Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, presidenti delle principali associazioni indipendentiste catalane, che furono i promotori della sollevazione popolare una volta avuta notizia del blitz della Guardia Civil. Se condannato, il maggiore della polizia catalana rischia fino a 15 anni di carcere. Sul fronte economico, intanto, anche l'impresa tessile Doggi, una storica realtà catalana, ha deciso di trasferire la propria sede sociale fuori dalla Catalogna, seguita molto probabilmente anche dall'azienda vinicola Freixenet. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. E abbiamo sentito nel servizio di Mario Magarò da Barcellona l'idea di alcune imprese catalane di trasferirsi nel caso ci fosse l'indipendenza. Su questo fronte si sta muovendo anche la stessa Madrid, ipotizzando qualche provvedimento in questa direzione. Siamo in linea con Luca Veronese del Sole 24 Ore. Luca, buongiorno innanzitutto. E che cosa stanno pensando dal governo spagnolo? Il governo spagnolo sta insistendo su tre fronti contro la Catalogna per impedirne la secessione. E uno è quello legale, quello dei giudici, delle sentenze della Corte Costituzionale. Il secondo è quello repressivo della polizia. Il terzo, in questi giorni più forte, è quello dell'economia. Il governo ha visto che l'incertezza sta creando molte perplessità nella comunità internazionale economica e nelle banche, soprattutto, e nelle imprese della Catalogna. In parte è propaganda, in parte è una vera paura di quello che potrebbe accadere con un lungo periodo di poca chiarezza e di rapporti tesi, come abbiamo visto. Il governo quindi ha deciso di favorire anche, appunto, come propaganda questa migrazione dalla Catalogna ad altre regioni della Spagna con un decreto che facilita i passaggi societari e quindi non è più necessaria la votazione dell'assemblea dei soci, decisioni più snelle per arrivare, appunto, come nel caso di CaixaBank, la terza banca spagnola e la prima della Catalogna, a un trasferimento che oggi verrà, credo, deciso verso Palma de Mallorca. Certo è che l'incertezza è forte e che le parole di De Guindos, il ministro dell'economia, hanno dato abbastanza il tono di quanto sia anche lo scontro sempre più duro tra Madrid e Barcellona. De Guindos ha parlato di investimenti che non arrivano più in Catalogna dall'estero. La verità sta nel mezzo, c'è molta tensione, ma anche le banche, le società che si trasferiscono fuori dalla Catalogna trasferiscono solo la sede sociale, non chiuderanno mai le banche gli sportelli e neanche le imprese le loro fabbriche, i loro stabilimenti. Io ti ringrazio intanto per questo punto a Luca Veronese del Sole 24 Ore. Negli ultimi giorni la vicenda catalana è stata messa, fateci dire, un po' forzatamente, un po' erroneamente in connessione con i referendum che si svolgeranno il 22 ottobre, ossia fra due settimane. Veneti e Lombardi potranno esprimersi sull'autonomia, su una maggiore autonomia per la loro regione, un referendum voluto dalla Lega, il punto di oggi. Il fronte del sì al referendum sulle autonomie del 22 ottobre scricchiola. È l'imprenditoria veneta a defilarsi dalle urne. Ieri Luciano Benetton ha detto che non andrà assolutamente a votare e ha definito l'appuntamento una stupidaggine. L'uomo che ha fatto della globalizzazione la sua arma vincente non è però un caso isolato in Veneto. Un altro big dell'industria tessile, Matteo Marzotto, boccia il quesito referendario. Più tiepido il patron di Diesel, Renzo Rosso, che non andrà a votare ma solo perché all'estero. Altri imprenditori avrebbero preferito che il Veneto imboccasse la strada della trattativa con Roma al pari dell'Emilia-Romagna, trattativa che avrebbe fatto risparmiare diversi quattrini. Ed è questo punto a preoccupare di più la Lega. Da un sondaggio per la Lega Nord realizzato a fine settembre da SVG emerge che per il 56% degli intervistati nel nord-ovest del paese la spesa sia inutile. Nel nord-est la percentuale è del 52%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È diventato famoso anche a livello internazionale per la sua politica di accoglienza dei migranti. Oggi il sindaco di Riace è indagato. Mi viene quasi da ridere perché non ho nessun bene nascosto, sono le prime parole di Domenico Lucano, sindaco di Riace nel Regino, alla notizia che risulta indagato dalla procura di Locri nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza nel suo comune, da sempre indicato invece come un esempio positivo. Le accuse sono di abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nell'inchiesta, iniziata a gennaio, risulta indagato anche Fernando Antonio Capone, presidente presidente dell'associazione Città Futura, Don Pino Puglisi. La Guardia di Finanza ha già acquisito diversi documenti nel municipio di Riace. La prefettura regina aveva recentemente sospeso in via cautelativa l'erogazione dei fondi di sostegno ai progetti di integrazione messi in atto dal sindaco, ma la questione era in via di risoluzione. Lucano, grazie alla sua attività ventennale a favore dei migranti, è stato inserito dalla rivista Fortune tra le personalità più influenti nel mondo e la RAI ha annunciato la realizzazione di una fiction su di lui. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Stiamo cercando di raggiungerlo, Domenico Lucano, il sindaco di Riace, vedremo se ci riusciremo nel corso della trasmissione. Il giudice federale brasiliano ha confermato l'arresto per Cesare Battisti, ma mentre Roma ribadisce la ferma volontà di assicurarlo alla giustizia italiana il prima possibile, all'indomani del suo arresto l'ex terrorista ostenta tranquillità, dichiara di non temere l'estradizione perché protetto da un decreto dell'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva che gli ha concesso un visto permanente in Brasile. L'estradizione è possibile invece secondo Alfano e Orlando. Ma come funzionano questi trattati? A questo è dedicata l'analisi del nostro Daniele Biacchessi. Il caso di Cesare Battisti, latitante per l'Italia, rifugiato secondo il Brasile, resta imbrigliato nelle pieghe dei trattati di estradizione internazionali, quelli che regolano i rapporti giudiziari tra i vari paesi. Non è un caso che fin dai primi degli anni Ottanta una piccola parte di militanti della lotta armata di sinistra, condannati a vario titolo per reati di tipo associativo, avessero scelto di fuggire in Francia, Nicaragua, Argentina, Messico e Brasile. In Francia resta ancora in vigore la cosiddetta dottrina Mitterrand, che riconosce lo status di rifugiato politico a chi dimostra di essere stato perseguito per le sue idee. In Nicaragua risiede da tempo una colonia di membri di organizzazioni armate che fanno riferimento ad Alessio Casimiri, condannato in via definitiva per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e gli uomini della scorta. Tra Nicaragua e Italia non sono mai stati firmati i trattati di estradizione. Con il Brasile esistono accordi di tipo giudiziario, ma sul caso di Cesare Battisti resta in vigore il decreto presidenziale che lo riconosce rifugiato politico. Ma attenzione, nonostante fossero scattate tra gli anni 70 e 80 dure discutibili leggi di tipo emergenziale contro i tanti gruppi della lotta armata di sinistra, l'Italia non era il Cile di Pinochet e l'Argentina di Videla, e i processi che hanno condannato 4 volte Cesare Battisti si sono tenuti nel pieno rispetto delle forme della democrazia. Quindi Battisti non è un rifugiato politico, ma un latitante che si è sottratto alla giustizia. Così dunque l'analisi del venerdì del nostro Daniele Biacchessi. Siamo alla politica italiana, ancora tra Ius Soli e legge elettorale. Il punto di oggi, Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, Simone, partiamo dalla legge elettorale perché il PD torna indietro. La soglia del 3% da raggiungere almeno in almeno 3 regioni per l'accesso al Senato non verrà introdotta e resterà la soglia al 3% a livello nazionale. Questo è il capogruppo del PD Ettore Rosato, quindi il testo resta così com'è, dice, e c'è l'accordo con AP che invece aveva proposto questa soglia regionale. Quindi Di Maio poi attacca Salvini, quindi schermaglie tra Movimento 5 Stelle e Lega. Di Maio dice: si è venduto per qualche poltrone, sta votando una legge che porterà di nuovo Renzi e Berlusconi al governo. C'è poi la questione Ius Soli, il tempo parlamentare per approvare il DDL c'è e i numeri anche. Ne è convinto il senatore PD Luigi Manconi, che è fra i promotori, ricordiamo, dello sciopero della fame a staffetta che stanno facendo alcuni parlamentari Dem, tra cui ricordiamo anche il ministro Graziano Del Rio, e oggi si è aggiunto anche Don Luigi Ciotti. Ricordiamo però che c'è il no di AP, perché Maurizio Lupi smentisce anche l'ipotesi di un'uscita dall'aula del suo gruppo in occasione del voto sul provvedimento. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento, questo punto politico di giornata. E veniamo allo sport, soprattutto il calcio. Oggi direi la nazionale che gioca questa sera, poi si confronterà lunedì con l'Albania. Insomma, la questione sono le qualificazioni mondiali. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao. Eccoci. Beh, insomma, serve un punto che avvisino il nostro commissario tecnico, che ieri, rispondendo piccato a una domanda di un giornalista macedone, ha detto che l'Italia è già qualificata per i playoff. No, non è così. Serve un punto per essere sicuri di essere secondi nel girone alle spalle della Spagna, di andare al playoff di novembre. La verità è che ne servono di più. Ne servono 3 questa sera, ne servono 3 contro l'Albania. Serve incrociare le dita per evitare poi che nel gioco del ranking si finisca nell'urna delle non teste di serie e a novembre si rischi magari di pescare il polline Portogallo campione d'Europa, e allora davvero diventerebbe tutto molto difficile. Un po' tosta, così diciamo. Come difficile, o comunque non così banale, non così semplice come sembra, è la partita di questa sera a Torino contro la Macedonia, intanto per le tante assenze della nazionale, poi perché Ventura è costretto a lanciare un modulo che ha usato in 13 mesi una sola volta in amichevole un anno fa contro la Germania, il 3-4-3. Davanti ci saranno Insigne, Immobile e Verdi, che fin qui in nazionale ha giocato soltanto un minuto nella nazionale maggiore, quindi è sicuramente un giovane di talento, ma rappresenta anche un'incognita. Insomma, ci sono una serie di cose che ci fanno dire che questa sera ci sarà da soffrire, cosa che tradizionalmente è sempre capitata all'Italia nelle partite contro avversari sulla carta nettamente inferiori. Ieri Ventura è apparso abbastanza nervoso, al di là della gaffe che vi abbiamo raccontato con il giornalista macedone sulla qualificazione o meno già raggiunta dall'Italia ai playoff. Se l'è presa con i suoi predecessori Prandelli e Conte, perché l'Italia è indietro nel ranking e quindi si è trovata in questo girone. Insomma, diciamo, però ci siamo a questo punto, in 4 partite tra oggi, lunedì e poi il 2 di novembre ci giochiamo davvero tutto. Attenzione, perché non siamo gli unici a rischiare. Questa notte l'Argentina ha pareggiato 0-0 contro il Perù, mancano 90 minuti alla fine del girone sudamericano, virtualmente oggi l'Argentina è fuori e potrebbe non bastare vincere l'ultima in Ecuador per riuscire ad entrare direttamente nel mondiale. Che sarebbe un fatto storico, l'Argentina che non entra al mondiale. Grazie comunque intanto a Giovanni. Grazie a te. Giovanni Capuano, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, il nostro giro d'Italia. Da dove iniziamo? È un tema che abbiamo affrontato altre volte, lo sapete, la riforma realizzata da Graziano Del Rio, quella che ha riformato le province, è rimasta appesa perché era una riforma che intendeva svuotare le province, e poi aspettando una riforma costituzionale che le abolisse completamente, solo che poi la riforma costituzionale non è passata e quindi le province sono rimaste là senza soldi e a gestire un sacco di cose, tra cui per esempio tantissime scuole superiori. Oggi scioperano i dipendenti delle province, circa 20.000, per capire che fine faranno, molto semplicemente, e sarà il nostro primo tema. E poi, nelle scorse settimane ce l'avete chiesto tante volte, dov'è finito Igor il russo, che non è stato mai ritrovato? Oggi torneremo a parlarne, a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, oltre che la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Effetto Giorno, dalle quali stiamo andando anche in diretta video. Se volete ci potete trovare anche là, potete commentare, potete scriverci anche là, perché vi leggiamo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del Nobel per la pace, che è andato alla lotta contro l'abolizione delle armi nucleari, della Catalogna con Madrid, che sta iniziando a reagire anche sul fronte economico, dell'indagine sul sindaco di Riace, quel sindaco diventato famoso per la politica di accoglienza dei migranti, di legge elettorale di Jussoli, anche di calcio, come avete sentito, delle qualificazioni ai mondiali, perché a Torino questa sera si gioca Italia-Macedonia. Tra poco andremo a parlare dello sciopero dei dipendenti delle province, qualche ascoltatore cattivello, e però forse potrebbe anche non avere gran torto, dice che ormai in Italia è diventata una tradizione lo sciopero del venerdì. Beh sì, l'abbiamo visto abbastanza spesso, anche e spessissimo nel trasporto pubblico locale. Non a caso oggi c'è uno sciopero del trasporto pubblico locale a Milano, va bene, ma non credo che sia per questo, forse anche per questo che hanno deciso di piazzare lo sciopero il venerdì, perché poi lo sciopero il venerdì ovviamente raccoglie molte più adesioni degli altri, cioè c'è anche una motivazione sindacale banalmente sotto questa idea. Allora domani, prima di andare a questo, domani 7 ottobre la 16ª edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'Associazione Bancaria Italiana, che ogni anno mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche e delle fondazioni di origine bancaria. Per il terzo anno partecipa alla manifestazione anche la Banca d'Italia, responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali dell'ABI Carlo Capoccioni, al microfono di Adriana Fracchia. Ci sono 9 palazzi che sono aperti per la prima volta e sono in città città come Cuneo, Rovereto, Trento, Treviso, Verona, Imola, Piacenza, Firenze ed anche Roma. Sono 102 i palazzi che sono aperti per tutti i cittadini e ovviamente gratuitamente. Non sono solamente palazzi antichi, ma la maggior parte ovviamente lo sono, dal 400 fino a quelli dell'800, ma ci sono anche nuovi palazzi in città come Milano, Torino, Roma, grattacieli di architetti importanti che hanno modificato la skyline della città come contributo ovviamente a un miglioramento della urbanistica della città. Sono più di 100 palazzi che generalmente sono luoghi di lavoro e quindi è impossibile aprirli al pubblico. Basta andare sul sito palazzi.abi.it e uno potrà trovare la regione, la città e il palazzo più vicino per capire meglio la storia del nostro paese. E questo un appuntamento del fine settimana sicuramente interessante. Il nostro Giro d'Italia inizia adesso dalla provincia di Lecce e per l'esattezza da Monteroni. Ed è una vicenda che ha a che fare non solamente con appunto la provincia di Lecce, ma con internet, con la rete, con i nostri rapporti con i colossi di internet. Che cosa succede? Succede che un uomo che si chiama Giovanni Giancane ha 48 anni ed è in linea con noi. Buongiorno Giancane, benvenuto. Ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Giovanni Giancane, appunto, di Monteroni, è stato indagato ed è andato a processo qualche tempo fa perché si supponeva fosse coinvolto, i magistrati si supponevano fosse coinvolto nel rapimento di una bambina. Si è dimostrato completamente estraneo ai fatti, tanto che è stato assolto e la procura non ha nemmeno fatto ricorso. Fatto sta che se uno fa una ricerca su Google che lo riguarda, lo trova sempre collegato a questo reato. E dunque, Giancane, avete deciso di chiedere i danni a Google? Sì. Nel numero di quanto? 2 milioni di euro? 2 milioni di euro gli ho chiesto. Perché sì. Io già gli ho fatto, gli abbiamo mandato già un'avvertenza al giudice di cancellare, oltre 30 giorni, non mi ricordo preciso, e non hanno cancellato. Non hanno ancora cancellato perché probabilmente la questione deve passare anche due mesi fa, però l'altro quotidiano, mi ricordo quando l'ho mandato, sì. A giugno, 1 giugno. Perché Giancane, il fatto che lei risultasse ancora presente nell'archivio di Google, appunto, quando si ricercava il suo nome, quando si ricercavano i fatti relativi al rapimento di questa bambina, le ha generato dei danni non solo di immagine ma anche psicologici? Sì. Di che tipo, che impatto hanno avuto? Io poi ho visto che non cancellano, perché già ho avuto io 4-5 ricoveri, no? 4-5 ricoveri ha avuto? Sì, sono stato all'ospedale, diciamo, come un manicomio, diciamo, una cosa così. Manicomio. Perché questo li ho avuti da quando è successo dalla bambina innocente. Poi ho avuto 4 tentati suicidi e l'ultimo l'ho fatto adesso, non mi ricordo, il 30 agosto mi sembra, perché guardo il telefonino e sono impazzito e mi sono tentato di uccidermi. Attentato. Perché mi viene in mente sempre quella cosa. Perché lei guarda il suo telefono e cerca questa cosa, oppure solo il guardare il telefono le fa questo effetto? No, mi fa effetto già guardare, perché io sono una persona assolto, assoluzione piena, tutto, poi ho chiesto pure i danni morali allo Stato, 2 milioni e 27 milioni di euro ho chiesto. Però su Google rimane sempre la mia foto, la mia immagine insieme alla PC nonno e poi tutte le cose vecchie scritte di rapimenti e tutte quelle cose. Sì. E l'ultima volta addirittura ha tentato di togliersi la vita lei, di suicidarsi? Sì, il 30 agosto è stato, mi sono tagliate le vene, mi è venuto bene. E al momento appunto da Google non è arrivata una risposta? No, sono fighe. Se ne sono fregati. Vedremo. Perché, sì, prego. Perché dove sto io, no? C'è un po' su, diciamo, tutte di quelle cose, come devo dire, dove c'è le foto, le indizi, tutte quelle cose. Sì. Diciamo, una cosa di vergogna dove sto io, Sì. Magari può vedere un figlio mio, può vedere un amico del mio figlio, i bambini, cose che devono dire a me, i miei figli. Certo. A guardare il telefonino. Perché lei ha figli? Io ho due figli pure. Che ovviamente girano su internet e la vedono collegata a questi fatti. Si vedono, Poi ogni volta è uscito sempre il mio nome, tutto assolto, assoluzione piena e tutto che ho chiesto i danni. Ha uscito sempre il mio nome. Quando usciva PC Nonno, usciva sempre il mio nome. PC Nonno è appunto la vicenda, la persona accusata e condannata per il rapimento di quella bambina. Condannata un anno e 8 mesi, che ha rubato la bambina. Sì. Io la ringrazio, grazie a Giovanni Giancana che ci ha consentito con la sua storia di sottolineare quello che evidentemente è un problema del nostro tempo. E fatemi dire all'ascoltatore o ascoltatrice che ci dice, a proposito dello sciopero del venerdì, ne abbiamo parlato prima, rammento a tutti che chi sciopera il venerdì non prende soldi, lo sappiamo perfettamente, quello che ho detto prima è che spesso è anche una tecnica sindacale, perché nel momento nel quale si proclama uno sciopero sei abbastanza certo che le adesioni del venerdì siano un po' più forti che negli altri giorni. Non è che si sta dicendo che uno sciopera per necessariamente per piacere suo o per farsi il fine settimana lungo, sciopera perché è convinto, poi il venerdì magari c'è qualche adesione in più e questo francamente è innegabile. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. E sì, all'ascoltatore che ancora oggi ci scrive, e Igor, sì, ci occupiamo anche di Igor tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezie, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. I nostri titoli: il Nobel per la pace alla lotta contro l'abolizione delle armi nucleari, mentre Trump si scaglia contro l'accordo con l'Iran. Catalogna, Madrid inizia a reagire sul fronte economico e di pochi istanti fa la notizia che il prefetto spagnolo in Catalogna, Enric Millo, ha chiesto scusa alla popolazione per le violente cariche nel giorno del referendum. Indagato il sindaco di Riace, era diventato famoso nel mondo per la politica di accoglienza dei migranti. Sulla legge elettorale e Ius Soli sono i due fronti dello scontro politico. Sulla cittadinanza i verdiniani aprono al sì contrari gli alfaniani. Il calcio, qualificazioni mondiali a Torino. Questa sera Italia-Macedonia, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Molti di voi via sms, via WhatsApp e non solo ci hanno ironizzato nei mesi scorsi, a volte è capitato di farlo anche a noi, su questa fuga di un imprendibile Igor Baklavich, detto per tutti Igor il Russo, in realtà di origine serba. L'ultima segnalazione che abbiamo, per darvi un'idea, quella di a Piscina Argelati, che è una piscina di Milano, dove qualcuno ha telefonato alla polizia e gli ha detto c'è Igor qua, maxi blitz, e ovviamente non c'era nessuno. Qualcuno ci ha ironizzato, come forse in qualche modo era anche normale che succedesse, visto che le ricerche sono andate avanti per settimane nelle campagne del Ferrarese e non si cavava un ragno da un buco. C'è chi invece per questa vicenda ha sofferto ed è la famiglia di Davide Fabbri, il barista che è stato ucciso da Igor Baklavich durante la sua fuga. Siamo in linea con l'avvocato della famiglia, che è Giorgio Bacchelli. Avvocato, buongiorno, ci scusi per l'attesa e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Famiglia che ha messo una taglia su Igor, e sono arrivate nei mesi quante segnalazioni? Ma lo dicevo in questi giorni anche ad altri colleghi vostri che mi hanno chiesto, le segnalazioni sono state numerose, devo dire, almeno 40-50 segnalazioni sono avvenute in questi ultimi due mesi e mezzo, e devo dire favorite molto dalla possibilità che il segnalante, invece di rivolgersi al carabinieri, ai posti di polizia eccetera, a fare le segnalazioni, che è una cosa che sicuramente costa fatica, costa tempo, costa sacrifici, costa eccetera, ha trovato più semplice e più comodo sfruttare i canali che abbiamo predisposto a tal fine, sia attraverso il comitato degli amici di Davide Fabbri, quindi il signor Presidente Morena, sia il sottoscritto, sì. Quando è stato fatto il bando taglia per questo Igor, Abbiamo anche indicato tutta una serie di dati, di mail, di sì, numeri telefonici, fax per queste comunicazioni. Sì. Questo ha agevolato moltissimo queste iniziative, anche se fino ad oggi devo dire... Nessuna di queste segnalazioni era fondata alla fine, no? Allora, la certezza assoluta che non si tratti, che non ci sia stata nessuna segnalazione fondata, non ce l'ho. Perché? Ho mandato tutte queste segnalazioni direttamente al procuratore della Repubblica, il dottor Forte di Bologna, sì, che si occupa di queste indagini. E che sta verificando. Esatto, che le fa verificare ovviamente dagli organi di polizia, cioè dai carabinieri principalmente. Non ho riscontri, nel senso che ho parlato più volte con il dottor Forte, l'ultima volta un paio di settimane fa, e mi ha detto che al momento non c'erano delle segnalazioni attendibili, cioè fondate, o perlomeno quando sono arrivati non c'era niente. Devo aggiungere che comunque tracce del passaggio del famigerato Igor non ce ne sono più da molto tempo, cioè dal maggio scorso. Sì. Probabilmente fuori dal paese. Qualcuno, se non sbaglio, aveva detto, visto che ne stiamo parlando proprio in questi giorni per la vicenda di Cesare Battisti, qualcuno ha detto forse in Brasile, mi sembra di aver capito. Sì, ma è una delle tante sparate che sono... state fatte così di pura fantasia. Ho ricevuto una segnalazione per esempio anche da Madrid, uno che ha fotografato una persona che usciva dall'aeroporto e diceva assomiglia molto a Igor. Altre segnalazioni abbiamo avute dal nord Italia, Lombardia, Piemonte, principalmente dalla zona di Bologna, certo, Ravenna, Ferrara, certo, eccetera. Anche Rovigo mi pare qualcosa, una segnalazione dalla Croazia. Non segnalazioni dalla Serbia, per esempio, che è il suo paese d'origine, che dovrebbe essere sul paese d'origine, sì. A quanto risulta, appunto, rinnoverete questa taglia, mi sembra di aver capito. Sì. L'intenzione è questa: la scade il giorno 22, perché aveva un termine di 3 mesi, scade il giorno 22 di questo mese, quindi tra 15 giorni circa, e la rinnoverete. Sì, verrà riproposta, penso, negli stessi termini. Scadenza 2 mesi, 3 mesi sicuramente, quindi 50.000 euro che avvocato, avvocato, ha l'impressione che i magistrati e le forze dell'ordine siano ancora impegnati su questo fronte o abbiano proprio mollato il colpo pensando che ormai sia fuori dal paese? No, non hanno sicuramente mollato il colpo, anche perché è stato fatto un tale battase, è stata fatta tanta pubblicità anche alle forze dell'ordine che sono impegnate per 2 o 3 mesi in maniera massiccia. Che a questo punto tocca prenderlo, anche perché se no lo Stato in sé ci fa una figuraccia, insomma. No, ovviamente. Teoricamente sì, anche se devo dire tutti i compiti che ho avuto si sono impegnati a fondo. Sì, ma questo non lo mettiamo in dubbio, ovviamente. Comunque la ringrazio, grazie all'avvocato Giorgio Bacchelli e buona fortuna per il vostro lavoro. Avete ragione, lo dico agli ascoltatori, è venerdì per tutti, ogni tanto c'è un calo di attenzione. Sì, ho detto che il Nobel per la pace è andato alla lotta contro l'abolizione delle armi nucleari, ma naturalmente il Nobel per la pace è andato alla lotta per l'abolizione delle armi nucleari, alla lotta contro le armi nucleari. Vi chiedo scusa, è venerdì, ogni tanto un piccolo calo di attenzione, avete perfettamente ragione. Silvio Lavornia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Salve Lavornia. Lavornia, abbia pazienza. Sindaco del comune di Dragoni, presidente facente funzione della provincia di Caserta, che è una delle province più in difficoltà a causa di questo passaggio che abbiamo raccontato, la legge Delrio che ha previsto una sorta di svuotamento quantomeno finanziario delle province, una riforma costituzionale che non è stata approvata, dipendenti delle province oggi in sciopero proprio perché non ci sono più quattrini e in realtà una serie di competenze restano, vero Lavornia? Certo, le 3 competenze essenziali, le funzioni viabilità, ambiente e edilizia scolastica rimangono, ma rimangono senza fondi, cioè praticamente quando si è fatto il referendum evidentemente si pensava che il risultato fosse sì. Quando noi siamo rientrati nella Costituzione, chiaramente siamo rimasti con le province, con le funzioni che ci hanno attribuito, però ci hanno attribuito delle funzioni senza soldi, quindi una legge scellerata, senza dubbio una legge secondo me incostituzionale, una legge illegittima che ha messo in ginocchio i servizi, sì, soprattutto di tutte le province d'Italia. Vogliamo essere chiari, lo dico, sì, per i nostri ascoltatori, non sto parlando per suo conto, ma sto parlando per conto nostro. Sì. Non è che qua siamo degli appassionati delle province, si sta semplicemente dicendo che conservano delle competenze, esatto, e non hanno i soldi per esercitare, esatto, queste competenze. Noi non siamo tanto che Lavornia, voi siete dovuti ricorrere ai soldi della regione Campania per poter aprire le scuole superiori, perché sennò quest'anno... La regione sicuramente ci ha dato una mano, ci ha dato un piccolo contributo per metterci nelle condizioni di avere almeno la documentazione propedeutica all'agibilità. Sì. E io naturalmente mi sono preso personalmente la responsabilità di riaprire le scuole, e con 1 milione di euro che ho racimolato in provincia grazie al decreto 50 che ci ha messo a disposizione 10 milioni sui 49 dei quali avremmo bisogno naturalmente, ma oltre quelli avremmo bisogno di finanziamenti ulteriori per svolgere i servizi. Sì. Cioè praticamente noi abbiamo 1700-1800 chilometri di strada che sono un colabrodo, 103 istituti superiori che non sono chiaramente agibili al 100%, e abbiamo un ambiente che chiaramente rivendica un intervento, sì, che io ho già avviato. A Lavornia, in 10 secondi, quindi sì, se succede qualcosa in una di queste scuole, la responsabilità è sua, ricade su di lei. Questo è il punto, questo per darvi l'idea, ripeto, non è una difesa delle province ma una questione altra, hanno delle competenze, gli attribuisce la legge e non hanno i soldi per esercitarle. Poi potremmo anche dire che negli anni gli sprechi sono stati tantissimi, però questo è il dato, e oggi lo sciopero dei dipendenti. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.